Notizie di giornata della Francia, l'ammutinamento intanto, a che punto è? L'ammutinamento, guarda, ieri la Francia ci ha riempiti veramente di notizie, e di titoli e tutto il resto, perché è stata davvero un'escalation con ultima la presa di posizione da parte della federazione, che sul sito ufficiale tramite il presidente Scalette ha criticato pesantemente i giocatori per l'ammutinamento di ieri, e ha anche tenuto a precisare che la esclusione di Anelka non è stata un'esclusione comunicata così senza un confronto, ma che a questo incontro c'era sia Anelka che il capitano Evra. Perché di questa precisazione? Perché nel comunicato letto da Domenech si faceva riferimento a una richiesta e una domanda da parte del calciatore che non ha trovato risposta. Secondo la federazione invece la risposta c'è stata. Io credo in generale che quando un giornale come l'Equipe, che ha una tradizione, ha una serie di valori e anche una caratura internazionale, non solo nazionale, così alta, fa un titolo come il virgolettato dell'altro giorno, io credo che siamo all'impazzimento totale. Perché credo che siano impazziti i giocatori, che sia impazzito Domenech, che sia impazzita la federazione. Trovo anche che la stampa francese abbia in alcuni casi gli sia un po' slittata la frizione, perché sinceramente mi è sembrata un qualcosa che andava oltre. La situazione in Inghilterra è quasi più paradossale rispetto a quella della Francia, perché se più o meno la Francia era già arrivata con i coltelli fuori prima del mondiale, l'Inghilterra no, l'Inghilterra era arrivata con tutti i favori del pronostico, con una qualificazione brillantissima, con delle amichevoli buone, con una unità, con Capello che aveva anche di fatto tolto una clausola che avrebbe potuto liberarlo unilateralmente dal contratto, quindi di fatto gli veniva prolungato fino agli europei fra 2 anni. Le condizioni erano ideali, un allenatore con il massimo della fiducia dalla federazione e dei giocatori. Sono bastati 2 pareggi, per carità, l'Inghilterra adesso deve vincere l'ultima gara per qualificarsi, e questa mattina sul sito della BBC una fonte anonima interna alla federazione dice: nel caso in cui Capello, cioè l'Inghilterra, non dovesse passare il turno, ci aspettiamo le dimissioni di Capello.